prova, sta. Sta, sta, sta. Ma perché poi dicono tutti sta? Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ciao a tutti, tutti convocati, non vai in vacanza, siamo qui tutta estate, eh? Vi do subito il numero verde perché ho diversi argomenti su cui farvi intervenire. 800240024. Giorgio De Luca è il nostro autore, Giovanni Melchiorre in redazione, Gianmarco Ferronati in regia, come ogni giorno. Buongiorno mister, anche a lei. Allora, prima cosa, un sacco di storie dell'estate, un grande classico. Prima cosa, ufficiale, ma è una notizia, lo sapete, l'avete letto sui giornali, Conte rinviato a giudizio a Cremona per frode sportiva, con lui altri 103 imbischiati del mondo del pallone e 200 partite che sono apparentemente taroccate, molte di esse sono quasi certamente taroccate. Tipico, e questo è un tipico argomento estivo, dai, già lo conosciamo, è inutile che facciamo finta di niente. Tipico argomento estivo come il calcio mercato, di cui poi parleremo. A proposito, Rami passa dal Milan a Siviglia per 3,5 milioni, Darmian è quasi fatta allo United per 20 milioni con buona pace del Napoli, di cui poi pure parleremo. Ma a proposito di Conte, ad esempio, scrive mio amico Maurizio Crosetti su Repubblica: 104 uomini di calcio sotto processo, 60 partite con almeno una prova di illecito, 200 gare in odore di combin, 200 punto esclamativo. Come dire che per anni dai dilettanti della Serie A c'è passato sotto il naso una farsa, una bieca commedia, 200 partite probabilmente truccate sono un mastodonte, una vergogna che rende appena l'idea dei confini del male. Non per nulla gli atti del processo di Cremona sono una Treccani, sono come la guida telefonica di New York, eccetera, eccetera. Il presidente federale Tavecchio ha parlato della posizione di Conte e anche del caso Catania, che comunque è pur sempre uno degli argomenti dell'estate. No, io oggi sono stato tutto il giorno qui dentro e di sopra, non ho saputo poco fa, comunque noi non cambiamo atteggiamento su quello che abbiamo detto, era una notizia che si aspettava. Nel caso Catania abbiamo un reo confesso che apre un fronte diverso rispetto a un'attività di indagine inquirente, e quindi si tratterà di vedere quali sono i collegati a questa situazione, ma credo che la procura federale è già in allerta per operare sui documenti che ha ricevuto da Catania. Prima cosa è questa, 800240024 numero verde. Intanto, anche questo avete letto con ampio risalto sui giornali, a Milano a quanto pare nascerà un nuovo stadio, addirittura il Corriere della Sera dice bellissimo, bellissimo progetto Milan al Portello, poi ne parliamo anche domani con Marco Bellinazzo per tutti i dettagli. Però ci possono essere anche dei, ci saranno certamente anche dei nostalgici di San Siro, qualora la prossima futura casa sarà pronta, San Siro rimarrà comunque il teatro dei sogni per molti milanisti, io credo. Per quanto riguarda il nuovo stadio, io continuo ad essere come San Tommaso, fino a quando non tocco i mattoni e non ci infilo il dito, continuo ad aspettare. Però c'è la voce di Benedini, presidente della Fondazione Fiera, che è questa. Noi milanesi dobbiamo, io mi sento molto milanese in questo caso, non milanista ma milanese, noi milanesi dobbiamo essere, direi, riconoscenti al Milan per aver ideato questo, per aver fatto questo, per fare questo investimento. Dobbiamo essere riconoscenti perché alla fine ricordatevi che quella è una zona non qualificata, è una zona morta. In questo momento ha vinto il progetto più innovativo, ha vinto il progetto, direi, unico in questo senso, e naturalmente anche perché da un punto di vista economico era il migliore. Non dimenticate che noi abbiamo tenuto conto anche di quello che è l'interesse dei cittadini. Io sono convinto che dopo, chiaramente, le prime, diciamo, reazioni che possono essere in parte negative da parte dei cittadini, sono sicuro che questi saranno convinti che è nel loro anche interesse, perché si deve creare un polo di attrazione che non è lo stadio soltanto, è un polo che vive 7 giorni alla settimana. Dunque, non per ordine di scuderia ovviamente, data l'appartenenza al nostro gruppo, ma perché è una voce importante, l'opinione di Giorgio Squinzi, presidente del Sassuolo ovviamente, tifoso milanista, oltre che presidente di Confindustria, sullo stadio dice: mi sembra che non abbia spazi di respiro adeguati, però se fanno il progetto evidentemente ci credono. 800 24 00 24, anche per questo. E poi per il Napoli, di cui tra poco parleremo anche con Pardo e con degli ospiti. Napoli che va in ritiro nel bunker. Intanto, come detto, Darmian sembra sfumare come obiettivo di mercato, perché è vicinissimo alla firma con lo United. Si è fatta dell'ironia ieri su Sarri, avete visto quelle foto in polo bianca, stanza settica piena di computer, qualcuno ha detto il medico della mutua. Ebbene, la notizia per oggi il Napoli è che oggi per il Napoli ci sarà un raduno blindato, cioè niente giornalisti, niente telecamere, tutti nel bunker. Sarri ha parlato questa mattina, ve lo facciamo sentire su Higuain. Sì. Quando uno ha a disposizione un giocatore con queste potenzialità, è chiaro che lo mette sicuramente al centro del progetto. Abbiamo la fortuna che questo è un giocatore forte, ma oltre a questo è anche un giocatore abbastanza eclettico, perché è uno che ha grande capacità a giocare un'altra punta accanto e ha grande capacità a fare l'attaccante di riferimento con un attaccante esterno larghi, quindi anche lui è un giocatore che ci lascia aperto più soluzioni. Il signor Pardo non è al momento raggiungibile. Tutti convocati. Tutti convocati. È chiaro, è un'atmosfera da primo giorno, un po' d'emozione, soprattutto da parte mia. È grande intervento del presidente, che mi ha fatto forse troppi complimenti davanti alla squadra, e questo mi ha fatto particolarmente piacere. E poi ho iniziato qualche colloquio individuale con i ragazzi, ne ho visti 2-3, e questo proseguirà chiaramente nei prossimi giorni fino alla partenza per il ritiro. Questo era Sarri oggi a Radio Kiss, curiosa strategia comunicativa del Napoli oggi con il ritiro chiuso. Ieri, come detto prima, le foto di Sarri su cui i diabolici social, i malefici social network si sono sbizzarriti, definendo come il professor Guido Tersilli, non so se vi ricordate quel film con Alberto Sordi. E oggi appunto il bunker off limits per tutti. È arrivato Pierluigi Pardo, che è a Napoli. Come va? Molto bene. A Napoli c'è anche il nostro amico Antonio Giordano del Corriere dello Sport. Volete dirmi che Pardo è dalle mie parti? Pardo è dalle tue parti, te lo comunico. Sono però un pochino a nord di Napoli, farò intervenire la polizia. Sono a Gaeta, tu sei a Cava? Cava di Siveri, la piccola Svizzera del sud. La piccola Svizzera. Adesso ci siamo geolocalizzati, ma tanto non potete andare al raduno del Napoli perché non vi fanno entrare, miei cari. No, mi spiegate perché a partire da Giordano i cronisti di una volta si infilavano. Si imbucavano. Qualcosa imbucheremo pure noi, qualcosa dovremmo pure sapere. Ma perché Napoli si nasconde? Questa è la domanda. No, cerca un po' di riservatezza. Ah. Credo di sì, non so spiegartelo. Devo dire che De Laurentiis è capace comunque di stupire con effetti specialisti, ci riesce sempre. Non mi ricordo se l'anno scorso fece più o meno la stessa cosa. Io di questi tempi già vado in letargo, perché mi avvicino alle vacanze. Pardo, non dire dove vado in ferie, tu sei capace di... No, lo so, un po' una località molto bella, devo dire, molto bella. Andrà a Formentera, dove che vada, tanto... Noi siamo per l'Italia. Vogliamo Antonio Giordano, le foto di Antonio Giordano che gioca con i racchettoni, io le vorrei vedere su qualche social. L'avete messo in mezzo pure oggi? Come l'hai capita? È ufficiale. Faccio lo scemo dell'etere, vabbè. 800 24 00 24 per intervenire. Però voglio dire, premesso che poi ognuno fa quello che gli pare, per carità, insomma, alla fine non ci sono regole certe in comunicazione. Noi abbiamo vinto un mondiale col silenzio stampa nell'82, il Napoli l'anno scorso è andato in ritiro, è una cosa che sembrava veramente folle, anche perché da quello che si sa, e che poi lo stesso De Laurentiis ha confermato, non è che ci fossero chissà quali comportamenti sbagliati da parte dei giocatori, però andarono in ritiro e cominciano a vincere una serie di partite, quindi ognuno fa come gli pare. Però io non vedo nessun motivo di... Appunto, no, di allora c'erano in quel caso c'erano i motivi. Giorno, ma anche perché io penso alla squadra di calcio, soprattutto all'inizio, soprattutto in una città come Napoli, non soltanto Napoli, ma Napoli è una città e una piazza particolarmente calda, deve immagazzinare energie, direi quasi sentimentali da parte dei tifosi. Quindi questo e noi siamo, non è una cosa corporativa, non è che dobbiamo fare una battaglia corporativa da giornalisti, però è chiaro che se tu impedisci alle televisioni, ai giornalisti di andare lì, levi comunque un accesso che sarà utile poi per le persone che da casa magari la sera vogliono vedere le immagini o vogliono sentire le dichiarazioni dei protagonisti. Comunque ognuno fa come gli pare, perché è De Laurentiis che è un diavolo, sta facendo crescere l'attesa per l'attesa lì. Può essere, ecco. Per Di Maro magari stiamo aspettando il colpo di teatro, ragazzi. Ci sta. Intanto però, cinematografico, Intanto però Darmian va da un'altra parte, l'oggetto del desiderio. Non so cosa ti ha detto la Trieste, Pardo, in questi giorni, se l'hai vista. L'altro giorno ha lanciato questa proposta: ipotechiamo un maschio angioino, facciamo, raccogliamo soldi, facciamo qualcosa per strappare Darmian al Toro. È arrivato lo United e se lo sfida. Vabbè, ma ci sta, sinceramente io credo che quando poi arriva l'offerta, ci sta il punto di vista del Torino, ci sta l'interesse del Manchester United, ci sta anche milioni. che i club italiani si siano dileguati, anche se secondo me è una valutazione congrua, lo dicevo l'altro giorno, perché Damian negli ultimi anni, guarda, a me all'inizio della carriera non piaceva, mi sembrava proprio un giocatore, anche ora ai tempi di Palermo, mi sembrava un giocatore in difficoltà. Negli ultimi 2-3 anni ha fatto delle cose eccezionali, è stato un punto di riferimento, ha fatto molto bene in nazionale, già al mondiale, ha fatto benissimo l'anno scorso, però a me piace. Poi è chiaro che rientra in questa serie di valutazioni un po' alte di questo inizio di mercato, però insomma, questi 20 milioni non mi sembrano una follia. No, considerate altre valutazioni mi sembra una cifra congrua, soprattutto perché... Complimenti al Torino, Il giocatore ha molto mercato, perché Antonio complimenti al Torino? Perché 20 milioni per un difensore, per un laterale di fascia, sono una cifra rilevante. Sì, magari però... anche congrua rispetto al valore del giocatore, assolutamente. Sì, ma anche ha ragione Pardo, però soprattutto congrua ai soldi che girano in questo inizio di mercato. Probabilmente più congrua alle possibilità del Manchester United, onestamente, e anche a quello che circola in questo momento al mercato. Anche Bertolacci è stato pagato 20 milioni. Sì. C'è una regola più o meno fissa, valgono tutti 20 milioni di euro, anche Pardo, ragazzi. Anche Pardo. Sì, magari, no, però se Baba, che è veramente un ragazzo di ottime speranze, vale 16 milioni, se Bertolacci ne vale 12, Darmian ne può valere 20. Proprio, cioè, se Bertolacci ne vale 20, sì, facendo i conti a spanne, sì, Pier. Se facendo i conti a spanne, sì, è così. Ma no, secondo me sono due valutazioni alte, ma secondo me che ci stanno. Poi sai, il mercato, poi adesso arriva Barigoni alle 5:30 e ce lo conferma. Il mercato è fatto di domanda e offerta. In momenti in cui ci sono dei cicli economici in cui c'è più liquidità, e momenti in cui non c'è. L'anno scorso non si batteva un chiodo, diciamo, dal punto di vista economico. Quest'anno sotto i 10 milioni non c'è, non nessuno sotto i 10 milioni. No, non sotto l'Alpi ha preso Parolo a 5 milioni e mezzo per fare un esempio, no? Sì, oggi ha parlato di Turbe, che il pacco dell'anno scorso per il quale la Roma ne ha spesi 31, ma queste sono altre storie, altre follie, altri errori probabilmente. Migliorerà. Per ora è un pacco, però io penso che non è quello visto l'anno scorso. Vediamo. C'è un paradosso. Dimmi Antonio. C'è un paradosso, lo sottopongo a Pardo. Un anno e mezzo fa il Napoli stava comprando, anzi l'aveva comprata a Storia a 15 e ora cerca di prenderla a 5. Ma non ci riesce però. Ragazzi, a Storia è finito male dall'ultimo anno. Credo che mi al ribasso. Sì, a Storia è uscito male, a Storia è uscito male dall'ultimo anno sicuramente, forse non soltanto per colpa sua, però sta di fatto è uscito male. La Roma comunque l'ha tolto dall'affare Nainggolan e credo che a Napoli non è che ci sia proprio, ecco, non stanno pensando di vendere il maschio angioino per Astori, con tutto il rispetto, nemmeno di fare i fuochi d'artificio che qua si vedono spesso nelle serate estive. Si inventa qualcosa però. Grande protagonista al mercato del Napoli, no, a parte questo, però cioè, mi sembra che ci sia una situazione così di interesse per un giocatore, ma senza svenarci, e credo che onestamente il Napoli forse dovesse partire dalla difesa. Sì. La mia sensazione è che se facciamo un mercato interessante, poi i nomi che sento sono tutti nomi di livello, tutti giocatori importanti o comunque giocatori che possono essere utili per il progetto di Sarri, secondo me rimane il grande nodo della difesa, cioè il Napoli comunque dietro, al di là dei limiti tattici del Napoli di Benitez, che dava poca protezione al reparto difensivo, secondo me anche dal punto di vista dei singoli lì deve migliorare, sì, con tutto rispetto per Albiol, e compagnia bella. Questo abbiamo detto molte volte. Un'ultima cosa per Antonio Giordano, due sondaggioni, uno riguarda il Napoli, Higuain sempre al centro del villaggio come ha detto Sarri, e sondaggione Conte dopo questo rinvio a giudizio, secondo te fa bene a restare protetto da Federcalcio che fa il suo dovere o potrebbe avere altre idee? Rispondo rapidamente, Higuain rimane al centro del villaggio e non vedo altrimenti, non ne trovo altri che possono valere Higuain. Su Conte mi metto in difficoltà, però forse è anche giusto così, non si possono decidere i colpevoli prima che ci sia un giudizio. Sono d'accordo, cioè quantomeno sono d'accordo sul fatto che il rinvio a giudizio non è una sentenza di condanna, e a questo punto l'unico che può decidere è Conte, la Federcalcio fa bene a difendere il suo commissario tecnico se questo vuole restare. Anch'io dico che Pardo è più bravo, però non è il giudizio mio, quindi che vuol dire? Sembra sempre il mio procuratore, che non ho, No, ti voglio dire che Conte secondo me... Bravo, questo è una cosa interessante. Conte secondo me non è che è successo niente di nuovo. No, ma lui è semplicemente stato, ufficiale. È una vicenda che si conosceva, è stato rinviato a giudizio, questa possibilità c'era nel momento nel quale ha firmato. Il problema è solamente pratico. Il problema è solamente pratico, perché la possibilità che venisse rinviato a giudizio la sapevamo, no? Un anno fa, quando Paolo Davecchio gli ha fatto firmare il contratto, questa possibilità c'era, cioè lui era stato già implicato nella vicenda. Quindi il problema è pratico, il problema è capire se le udienze. Se questo, e ovviamente anche dal punto di vista psicologico, comunque non è piacevole come vicenda in assoluto, no? E se questa cosa qui può in qualche modo finire per ostacolare il suo lavoro di commissario tecnico. La cosa che, come dicevo, deve assolutamente evitare, secondo me, dal punto di vista della comunicazione, ma credo che si sia già pentito di quella affermazione dei suoi avvocati, quel desiderio di avere giustizia subito, che è, per carità, sacrosanto da parte di qualsiasi cittadino di questo paese, però. Sembrava un po' veramente lei non sta un binario privilegiato, siccome sì, io sicuro. Sono iscritto della nazionale, devo avere, e questa cosa secondo me in quest'epoca giustamente anche anticasta, qualche volta al limite del populismo, secondo me è proprio inaccettabile. Quindi Conte deve farsi giudicare come qualsiasi altro cittadino, poi se è sufficientemente sereno per restare al suo posto lo faccia pure, ad oggi è innocente con la pausa del calcio, sì. non è uno scandalo, cioè non eviterei adesso improvvisamente una serie di valutazioni, sì, la gogna mediatica, i roghi in piazza, queste cose qui, cioè non è cambiato niente da ieri, no, non è cambiato. Già c'era, è arrivato chiaramente, è arrivata l'ufficialità di questa notizia, non è una cosa bella, ma non sono cambiate soprattutto le posizioni. Io ringrazio Antonio Giordano del Corriere dello Sport, è sempre un piacere, grazie Antonio, cerca di imbucarti nel ritiro di Di Marzo, ce la farai. Nell'attesa nessuno mi ha incolpi di aver invitato Pardo a pranzo per domani. Domani mi ha invitato a cava, e quindi non in Bucati, a Castel Volturno, perché se voglio venire a fare il bagno che trovo te a Castel Volturno, sei matto. Te lo racconto io, ti dico tutto, sono i miei informatori. E io qui al chiodo, vabbè, divertitevi. Grazie Antonio, Pier, tu stai lì, Borsa, poi torniamo, Enzo Provincia di Modena, il primo ascoltatore di oggi, sui temi che volete come sempre, 800 24 00 24 è il numero verde. Pipita, se avevi paura di tirare i calci di rigore, avevi vinto la Coppa America e forse il Napoli il tricolore. Ti piace Carlo? Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Che dire, arrieccici. Tutti convocati. C'è chi domanda, messaggi 349-238-6666, se dopo Romagnoli arriva Hummels al Milan, secondo me è abbastanza difficile che arrivi anche soltanto uno dei due, prezzi elevatissimi. C'è chi ricorda che voi giornalisti, quando vi conviene, avete sempre la memoria corta, Conte è già stato squalificato 8 mesi, sì, ma tanto siamo in Italia, va così, tranquilli, non vi preoccupate, è stato squalificato 8 mesi dalla giustizia sportiva, adesso stiamo parlando di un'altra storia che non riguarda la giustizia sportiva, ma un tribunale della Repubblica Italiana. 800 24 00 24 al numero verde, Enzo, Provincia di Modena, buongiorno, parla in linea, vi sta ascoltando. Sì, posso dire una cosa su questo, scusa? Sì. È stato squalificato, quindi ha pagato. Cioè, sì, dal punto di vista sportivo, questo sì. Questo è un concetto che mi rendo conto, poi può rimanere una macchia sicuramente sull'immagine di un allenatore, di un giocatore, e per carità, nessuno discute questo. Però Conte è stato squalificato e ha pagato, poi se la sentenza è stata eccessiva, se la sentenza è stata invece troppo poco, questo è un altro discorso, ma ha pagato e quindi da un punto di vista sportivo sì, Pia, però da sportivo stiamo bisogna distinguere con chiarezza i due piani. Dal punto di vista penale di giustizia ordinaria, chiaramente ci può essere più che altro un discorso di pratico, di opportunità e di conflitto fra le udienze che ci saranno, la pressione, magari il fastidio di dover essere tutti i giorni sui giornali, magari se questo accadrà per questo processo, e il lavoro di commissario tecnico. Questo è l'unico problema, ma uh-huh. La prova contraria, oggi per la giustizia ordinaria Conte è innocente e per la giustizia sportiva ha pagato sul debito, sì, per sì. Lui e tutti gli altri. No, ma è solo tutti. Questione di fare chiarezza, cioè appunto. Di distinguere con esattezza i due piani che sono profondamente diversi. Enzo, buongiorno, grazie per l'attesa. Enzo, non si è stufato Enzo da provincia di Modena, ha messo giù mi sa, ma adesso lo richiamiamo. Andrea da Trento, buongiorno. Sì. Buongiorno a tutti. Dica. Io volevo fare due considerazioni veloci su quanto è stato detto questa mattina poco fa, ovvero per quanto riguarda la valutazione di Darmian, non considerare quello che sono i nuovi diritti televisivi che girano in Inghilterra è un mettere uno particolare importante, perché hanno un potere d'acquisto ormai 3 volte superiore rispetto a quello che è in Italia. Sì. E quindi 20 milioni per il Manchester sono il 10% delle entrate televisive, noccioline. Su questo non esiste dubbio, e il discorso vale anche, ed è un discorso molto interessante che abbiamo fatto i giorni scorsi, che rifaremo magari anche domani con Berinazzo, il doppio binario su cui stanno viaggiando i Pozzo con il Watford neopromosso in Premier League, che insomma ha i soldi e bussa a varie porte in Italia per portarsi a casa dei giocatori ricevendo spesso dei rifiuti, ma non è una novità al di là del nuovo contratto dei diritti televisivi in Inghilterra, che rende le squadre ricchissime soprattutto per quanto riguarda i diritti venduti, ceduti nei paesi asiatici. Non è una novità di quest'anno, cioè è da tempo che le squadre inglesi per questi motivi navigano nell'oro, quindi non sorprende il fatto da quest'anno ancora di più con l'Italia, però, che se si può consolare è al secondo posto. E qui insomma, senza rientrare nella polemica, abbiamo fatto 1000 volte sui diritti televisivi, la ripartizione eccetera. Però dal punto di vista dell'advisor e dei compratori, quindi dell'offerta di queste due televisioni, che a me stanno anche simpatiche perché ci ho lavorato in tutte e due, in una ci lavoro, nell'altra ci lavoravo prima, che si scannano per comprare questi diritti televisivi, e l'advisor che riesce a venderli li ha venduti molto bene. Quindi l'Italia da questo punto di vista, dal punto di vista dei diritti televisivi, è meglio, riesce a fare meglio di quello che è il livello, perché noi non siamo probabilmente, sicuramente non siamo il secondo campionato d'Europa. Però vendiamo a un prezzo più alto della Spagna, quindi da questo punto di vista dobbiamo sorridere. L'Inghilterra col nuovo contratto è completamente fuori mercato, e questo apre degli scenari che possono essere inquietanti, cioè la salvezza del Watford, tanto per essere chiari, per la famiglia Pozzo dal punto di vista strettamente economico vale molto di più della salvezza dell'Udinese. In più in Inghilterra c'è un meccanismo che da questo punto di vista tutela le squadre, che fa sì che ci sia uno scivolo negli anni successivi a un'eventuale retrocessione, per cui comunque hai una sorta di ciambella di salvataggio. Enrico Milano, buongiorno. Buongiorno a tutti. Io volevo dire qualcosa su Darmiani, il fatto che mi dispiace che vada via il Torino, anche perché sono simpatizzante del Torino, e poi anche perché poi anche mio compaesano di Rescaldina. Quindi per due motivi. Sono contento per lui, però il mio dubbio che mi rimane non è che sarà un altro Cerci, un altro giocatore che faranno lì e poi dopo ritorna in qualche squadra italiana. Non so fino a che punto può fare ancora una differenza in una squadra di livello. Questa è una bella domanda. Dipende anche dalla squadra che è intorno. Ventura è molto bravo, Cairo è molto bravo, il pubblico del Torino, e il Torino in questi ultimi anni vive di una sua magia particolare, anche prima, però è un momento in cui le cose vanno particolarmente bene, in cui un po' della libidine, come la definizione di Ventura, si è estesa alla tifoseria, alla società, e quindi sono nate delle cose fantastiche. Quindi io non escludo che questo possa essere vero, cioè che un po' della crescita di Darmian sia legata al fatto che si è trovato nel contesto giusto, sì, con l'allenatore giusto, con una squadra che non vale solo per lui, mio caro, vale solo per tanti giocatori che sono stati valorizzati da quel contesto. Non farmi ricordare Cerce Immobile, che è fin troppo facile, Glick, lo stesso Quagliarella, l'elenco è lunghissimo. L'elenco è davvero lungo. Evidentemente è un contesto in cui collaudato, in cui i giocatori, per bravura del club, per bravura di Venture, per la solidità della squadra, riescono a rendere al meglio. Interessante vedere cosa combinano dopo, perché quest'anno, ad esempio, Cerce Immobile, entrambi buco nell'acqua, tutte e due, intanto che Immobile, ma poi ne parliamo, parleremo anche di mercato, sembra sia arrivato anche agli sgoccioli della sua avventura tedesca. Però, per introdurre il prossimo argomento che mi interessa molto, vorrei riportarvi indietro di qualche anno, il 2004, finale degli europei. Successe questo. Lo ricordi, no, Pardo? Gol di Karisteas. Eri lì. Era la mia prima esperienza da inviato, ai tempi alla Sky, e fu molto lì, a parte il Portogallo, un paese meraviglioso. E mi ricordo, la grande compostezza dei portoghesi nell'accettare la sconfitta, francamente sorprendente in finale, e questa Grecia che giocava un calcio veramente basico, elementare, aveva vinto, però insomma alla fine con merito, 5 partite dell'Europeo, era riuscita, 6 partite dell'Europeo, era riuscita a vincere alla fine con merito, fu una eroica semifinale contro la Repubblica Ceca, e poi la 1-0 col gol di Karisteas Aldalus, quindi una roba abbastante impressionante. Adesso l'argomento è ovviamente all'ordine del giorno, non è questa la sede in cui trattarla, ma ce ne sono moltissime di sedi. Avete sentito prima il GR Europa, poi arriva Barisoni, eccetera, eccetera. Però io ho una curiosità, cioè allo sport greco, che ha grandi club, non solo nel calcio, come ne verrà fuori? Come riuscirà a barcamenarsi in tutto questo? Voglio chiedere a Riccardo Guffanti, che è un collaboratore dell'Udinese, che è mamma greca, che insomma monitora da vicino quel mercato. Io sono molto curioso di sapere come sta la Grecia dal punto di vista sportivo. Ciao Riccardo. Ciao, fatemi salutare in greco. Giaxu Kalimera Seolus, cioè buongiorno a tutti. Ogni tanto salutiamo anche Alexi, perché in un momento Carnamba, figlio di Riccardo, ti ringrazio e saluto proprio a tutti, mi fa molto piacere essere in collegamento con voi, soprattutto per la vostra bellissima trasmissione. Grazie. Seguo per Luigi anche a Tiki Taka in tutte le sue evoluzioni. E però mi fa molto piacere il fatto che vogliate parlare un po' della Grecia, un paese molto insomma piccolo, conta 11 milioni e mezzo di abitanti, però che porta tanti calciatori nel nostro campionato, almeno negli ultimi anni ha portato tanti calciatori, no? Nel nostro campionato italiano, e oltretutto devo dire anche calciatori, direi se non talenti, perlomeno buoni, se non ottimi giocatori. Soltanto pensare a Torosinis, a Manolas, alla Roma, Moras al Verona, Lazaros, Christodoropoulos, al Chievo, a Kone, ovviamente Karnesis, portiere della nazionale greca e portiere dell'Udinese Calcio. Quindi per citarne qualcuno, anche se però la nazionale non è che stia andando molto bene. Nazionale disastrosa, già fuori dagli europei. È come l'economia la nazionale in questo momento. C'è un certo parallelo. A me viene da pensare che il calcio purtroppo sta, chiaramente noi stiamo scherzando perché è la vita questa, però la situazione dal punto di vista economico è drammatico. Il calcio abbia un po' anticipato la drammaticità, no? Perché qualche mese fa è arrivata la notizia della sospensione del campionato. Ci sono state due sospensioni ultimamente, tutte e due sono state sospensioni non di crisi economica, perché è giusto anche dirlo, è vero. In questo momento io non sono un economista, sono più ovviamente per lavoro, sono più attento alle questioni tecniche, sportive, però posso dire che ultimamente la Grecia, il calcio greco, no? Il calcio greco ha perso, i club hanno perso quasi 60 milioni di euro di introiti, quindi questo è legato fortemente alla crisi economica del paese. Però il riferimento che faceva per legge è un riferimento di un problema che è anche nostro, italiano, che tante volte noi spesso ci dimentichiamo o vogliamo dimenticarcene, non entrando proprio nel vero nel merito, nel vero senso della parola, che è la violenza. Cioè, quindi il campionato greco è stato soprattutto fermato ultimamente, era stato fermato per quegli incidenti nel derby di AEK Panathinaico, però bisogna entrare un po' anche, sono episodi nella storia insomma del calcio, soprattutto ateniese, perché Atene, che in realtà conta quasi la metà, Atene ovviamente periferia di Atene, conta quasi la metà degli abitanti di tutta la Grecia, e dove ovviamente ci sono, senza nulla togliere al PAOK e all'Aris di Salonico, quindi altra grande città, ovviamente ci sono i club che hanno vinto la maggior Panathinaikos e Olympiakos, tanto per fare i due nomi, che rappresentano. Io da ragazzino, quando andavo in Grecia con mia mamma, ero molto affascinato in quegli anni dal Panathinaikos, che era considerata la Juventus d'Italia, vinceva di Grecia, vinceva quasi ogni anno il campionato. Però mia mamma mi sgridava, perché ovviamente mia mamma era della zona del Pireo, e sapete che nella zona del Pireo è Olympiakos. Riccardo, ti chiedo un attimo di pazienza perché ho il traffico in linea, ma poi sono curioso di capire: Panathinaikos, Olympiakos sono superpotenze non solo nel calcio, anche negli altri sport, e lo sappiamo bene, sostenute da armatori con molti soldi. Io vorrei capire che cosa sarà di loro. Traffico. Torniamo subito. Tutti convocati. Convocati. Ovviamente sempre per Luigi Pardo, stiamo parlando con Riccardo Guffanti, che rappresenta Udinese, fa monitor al mercato greco per l'Udinese, conosce molto bene quella realtà, e la domanda è la stessa che ti faccio dell'ultima, Riccardo: cosa sarà di questi grandi club? Gli armatori ci sono ancora? La situazione può essere ancora quella di prima? Forti economicamente, ovviamente sostengono ovviamente una grande fetta economica, ma voglio ricordare che in Grecia c'è molto l'aiuto non soltanto del privato, ma molto probabilmente ci sarà un aiuto anche del governo. Soprattutto mi sto riferendo alle ultime situazioni di questa profonda crisi economica. Ma c'è un motivo, perché il calcio, ma questo varrebbe anche per l'Italia, anche se in modo differente ovviamente, però in Grecia credo che produca un 550 milioni di euro tra indotto meno, cioè introiti allo Stato. Cioè, quindi non provate a pensare che quasi, si dice che è quasi al 0,5-0,6 di PIL, quindi provate a pensare anche in Italia, quando il governo Monti decise era intenzionato insomma a sospendere il campionato per 2 o 3 anni, se vi ricordate, no, come se fosse ma sono follie, un'altra follia, no? No, perché produceva in Italia, produceva 9 miliardi, pensate voi. È un miliardo di tasse produceva il governo italiano, e voleva sospendere Monti per 2 o 3 anni il campionato italiano, perché c'era la crisi economica. Il calcio non si può sospendere perché è una grande industria, e poi l'industria è anche una grande passione popolare, quindi ricadute di ordine pubblico. Io parlavo di conti, mi piace, bravo, che ricordi che poi c'è sempre quella grande ovviamente passione di cuore, ovviamente, che divide insomma le persone, le attrae, cioè, insomma un sacco di cose. Ma basta soltanto pensare che in Grecia, ritornando alla Grecia, 1-2 su 100 lavorano nell'industria del calcio, quindi su 44.000 ci sono 44.000 greci, un totale di 3.500.000 ovviamente persone che lavorano in Grecia, quindi per la Grecia significa tanto. Quindi è ovvio che il governo, da questo punto di vista, ha molto interesse nel rilanciare con le riforme quell'economia, che non è un'economia molto forte, perché stiamo parlando di un paese che ha poche aziende che producono, cioè esportano pochissime materie prime, quindi da questo punto di vista, quindi il calcio governo Tsipras lo sa benissimo. Ecco perché, quando io ho voluto ricordare il discorso della violenza, e ha voluto dare un segnale molto forte sospendendo il campionato sul discorso della violenza, perché credo che nel momento stesso in cui si riuscirà in Grecia, ma questo varrebbe anche per l'Italia, però credo che siamo abbastanza sulla strada giusta, perché vedo che al Milan gli hanno dato la possibilità di costruire lo stadio. Udine lo sta finendo, sì. La Juventus l'ha già fatto, quindi anche se in ritardo il nostro calcio... Il discorso è chiaro, cioè è un asset troppo importante per l'economia greca. Riccardo, io ti ringrazio, ci sentiamo presto per aggiornamento. Grazie a voi. Vediamo che succede. Ho parlato un po' della Grecia. Ma se ne parla tanto, ma io ti dico, credo che il sentimento della stragrande maggioranza degli italiani, mediamente abbiamo un sacco di difetti, per carità, però se c'è un difetto che secondo me mediamente non abbiamo è quello di essere soltanto innamorati del nostro paese, di non essere aperti verso gli altri. Io credo che se si facesse un sondaggio la stragrande maggioranza degli italiani vorrebbe assolutamente un accordo e un compromesso, perché non possiamo immaginare l'Europa senza Grecia, no, da mille punti di vista, no? Dal punto di vista economico, anche dal punto di vista culturale, credo che sarebbe una cosa assurda. Credo onestamente che tutto poteva essere più semplice, nel senso che comunque mi sembra che a un certo punto, nella fase delle trattative, un paio di settimane fa, in quel famoso venerdì, di fronte al prestito ponte di 5 mesi, da quello che abbiamo capito, poi c'è stata la voglia di cercare un atto di forza che è perfettamente riuscito, perché hanno detto democraticamente di no, e perché chiaramente l'austerity è ovvio che non è piacevole. È proprio una cosa. Il caso non è risolto, non è conviene aspettare, insomma, però, la però fine di questa settimana. Se hai un problema come paese e sei debitore, se hai un problema come paese, devi anche lavorare su te stesso. Beh, Cipro è arrivato da 4 mesi, da 5 mesi, non è colpa sua, però voglio dire. Non è colpa sua, però aspettiamo i segnali. Speriamo che si trovi un compromesso, dai. Farebbe bene a tutti, soprattutto ai greci, ma non soltanto ai greci. Pier, ti saluto con questa di calcio. Allora, sì. Abbiamo letto su tutti i giornali di oggi che Mihajlovic ha bocciato Mexes, chiedeva Romagnoli, Hummels, non so. Comunque, Mexes bocciato da Mihajlovic, non voleva più vedere. Indovina dove gioca Mexes l'anno prossimo. Dove gioca? Nel Milan, appena rinnovato per un anno. Perfetto, però... bisogna capire se gioca da titolare o se gioca da... No, però credo sia stato il grosso modo il primo confronto, no? Mexes Berlusconi. Berlusconi voleva Mexes a tutti i costi. Sinisa ha detto forse meglio di no. Un anno di rinnovo è ufficiale, è arrivato. Tu dici che Sinisa non è contento. Ma non lo so. Di questo rinnovo. Io mi invito a leggere i giornali e a riportare le notizie. Visti i giornali di oggi, non sono così sicuro. Sì, esatto. Ciao Pierino, ci sentiamo domani. Ciao. Ci fermiamo per il giornale radio. Mario, da provincia di Chieti, non ci lasci. Stia lì. 800 24 00 24, il numero verde. Poi torniamo e riparliamo anche di mercato, oltre che parlare con voi di quello che volete. Ciao. Ciao Luigi, ciao Pierluigi. Ciao a tutti e due. Tutti convocati. Dove nasce tutto il cibo del mondo? Da dove arriva il pomodoro? Chi sostiene la terra? Le domande dei bambini, le risposte degli scienziati. Da cibo a evoluzione, da spreco a sostenibilità. Le grandi parole di Expo raccontate ai più piccoli. Telmo, sei sicuro? Riusciremo a spiegare anche parole tipo biodiversità? Certo Federico, è la diversità degli animali e delle piante. E ci sono un sacco di sorprese. Tu per esempio sapevi di essere parente della banana? No, però vabbè, se lo dice un filosofo della scienza mi sa che ci devo credere. Vi aspettiamo ogni domenica alle 9 con interviste, esperimenti, storie, filastrocche e tante curiosità. Con Telmo Pievani e Federico Taddia, Terra in Vista, l'Expo come non l'avete mai visto. Il segnale orario vi è offerto da Gran Moravia e Burro delle Alpi di Brazzale. Fidati di chi conosci da 200 anni. Si ricomincia. Convocati 800 24 0024 e convochiamo subito Mario da provincia di Chieti, che ha ascoltato con noi GR, Angelo dalla provincia di Bergamo. Mario, buongiorno. Buongiorno a voi. Grazie per essere rimasto, dica. Grazie a voi innanzitutto. Ascolta, allora io vorrei evidenziare per l'ennesima volta, penso che questa se ne parli anche da un bel po' di tempo, direi da anni, e direi, se mi permettete, la colpa è anche un po' anche dei giornalisti. Di cosa? Allora, io vorrei sollevare il problema degli stranieri. Sì. Se ne parla. La nazionale poi, quando si tratta di giocare, abbiamo delle batoste e brutte figure. quest'anno confermano le grosse squadre. Io non parlo dell'Empoli, della Fiorentina, però le dico le prime sei squadre, quelle più forti, cosa andiamo a vedere? Mi scusi, ma sono un po' emozionato. Cosa andiamo a notare? Andiamo a notare che Milan, Inter, anche Juventus quest'anno, perché fino allo scorso anno, grazie a Dio, non era male. Cioè, andiamo ancora a comprare 8 su 11, 9 su 11, anche il Napoli. Tutti stranieri. Sì, però le dico anche il Real Madrid, le dico anche il Manchester United, le dico le quattro semifinaliste di Champions avevano praticamente in campo lo stesso numero di autoctoni e di stranieri, lo stesso Bayern Monaco, lo stesso Barcellona, 4-5 spagnoli, 4-5 tedeschi, gli altri venivano da altre parti, quindi è un discorso ormai vecchio, come non come il mondo ma come la data della legge Bosman, come la data dell'ingresso, dell'apertura dell'Unione Europea, cioè la libera circolazione dei professionisti, e questa è una legge che non si può limitare con il protezionismo. Dunque, o un club decide per le sue ragioni di andare sulla pista italiana, oppure questo è il mondo di oggi, non si può fare protezionismo sui giocatori provenienti da altri paesi dell'Unione Europea. Quanto agli extracomunitari, ci sono delle leggi che sono anche qui più o meno identiche in tutti i paesi. Angelo, provincia di Bergamo, buongiorno. Buongiorno, dato che ero in macchina prima e ho sentito parlare di Conte, che lui ha già pagato. Cosa ha pagato Conte? 8 mesi. Ma che cosa ha pagato? Non ha pagato niente, faceva l'allenatore, era su dentro uno specchio. Sì, era dietro un vetro offuscato. Allora, cioè, quando uno paga non va neanche nel campo a allenare i suoi giocatori. Cioè, io non sto dicendo che Conte è da condannare o non condannare, però si sta creando Conte come se fosse stato condannato pur non facendo niente. Conte aveva patteggiato. Conte ha combinato dei casini, Conte. Adesso lo vediamo da un punto di vista penale. Per quanto riguarda il piano sportivo, che è totalmente diverso, Conte aveva patteggiato questa sanzione e poi ha fatto quello che gli hanno consentito di fare, piaccia o no. Quindi questo è il quadro della situazione. La sentenza non l'abbiamo messa né io né lei, e le modalità di applicazione della sentenza io posso anche essere d'accordo. Se un allenatore è squalificato, non allena la squadra durante la settimana, e se vuole andare in tribuna poi ci va come un altro, oppure decidiamo che deve rimanere fuori dallo stadio. Però questo bisogna deciderlo nero su bianco. Quello che risulta è che la giustizia sportiva, sulla base del patteggiamento, ha emesso quella sentenza, corretta oppure no, che poi è stata pure ridimensionata, è stata pure ridotta. Da un punto di vista della giustizia dello Stato italiano, adesso vediamo, l'importante è sapere e capire che sono due piani profondamente distinti. Ora vorrei invece entrare nel vivo del discorso mercato, che interessa molto a me, ma credo anche a voi, anzi sono certo anche a voi. Carlo Laudisi, inviato della Gazzetta dello Sport, ciao. Ciao Carlo. Ciao. Senti, vorrei partire dalla notizia degli ultimi minuti che ho letto proprio sul vostro sito. Oggi in prima pagina, taglio alto a destra, Mexès bocciato, Mihajlovic vuole solo Romagnoli. No. Io ho detto, è stato un primo confronto tra Berlusconi e il suo allenatore. Mi sembra che la tua chiavettura sia la più esatta, perché da ieri c'è stato poi o stamattina un faccia a faccia fra Mihajlovic e Mexès, che evidentemente ha portato, come dire, a un patto tra i due. Questo, diciamo, è l'atto finale. È molto probabile che preventivamente ci sia stato un intervento della proprietà, perché comunque in effetti oggi avevamo titolato in quella maniera in prima pagina, anche perché avevamo annusato da qualche settimana che il Milan era intenzionato a prolungare il contratto a Mexès. Appunto, mi sembra fosse abbastanza pubblica la notizia, appunto, quindi ecco perché faceva notizia che il tecnico serbo si opponesse. E mettiamolo in positivo, vuol dire che la lavata di testa è servita a contentare Mihajlovic, perché poi Poi qui si apre un capitolo tra i detrattori e gli affezionati, se ancora ce ne sono, di Max S. E dal punto di vista tecnico c'è poco da discutere, è evidente che poi non piace il suo atteggiamento, no? Quello che poi lo ha portato ad avere tutte quelle squalifiche, ma anche quell'irrequietezza di fondo che secondo me ha frenato un giocatore che nella sua carriera avrebbe potuto fare molto di più. Certo, comunque è un caso politico questo, possiamo derubricarlo a caso politico, no? Rubrichiamo anche lo stipendio di Max S, che comunque era enorme. Adesso è dimagrito anche lui, era ora, vista anche l'età. Sì, non c'è dubbio. Senti, volevo chiederti una raffica di cose rapide. Fronte Borussia Dortmund, leggo che Immobile potrebbe essere sul piede di partenza, magari potrebbe tornare in Italia, poi c'è Gundogan che interessa al Milan. Possono arrivare tutti e due da qualche parte? Ma io direi Immobile certamente, perché ha chiesto di andare via, c'è questa pista che lo porta al Siviglia, mentre per Gundogan è una crisi nata di recente, mentre la passione rossonera per lui è di antica data, ecco perché abbiamo registrato questi contatti. Vedremo a cosa porteranno, perché comunque prima occorre uno svolgimento nei ranghi rossoneri. Sì, certo. E quindi questo è un obiettivo che potrebbe anche essere per il mese di agosto, come Ibrahimovic del resto, no? L'altro mantra del mercato rossonero. E Romagnoli? Su Romagnoli anche quella è una partita di attesa, perché i segnali sono che nonostante la Roma lo ritenga incedibile, le esigenze di cassa prima o poi potrebbero portare Pallotta e quindi Zavadini a rivedere l'idea. Il Milan è sicuramente in primissima fila. Salà dove va? Salà, io vedo Roma, soprattutto appunto se vende e quindi ha poi la guida, perché il Chelsea è arrabbiato col giocatore, voleva che andasse alla Fiorentina, ormai a Firenze non potrà più andare, però mi sembra che l'Inter non abbia chance. Oscar Cuadrado, Götze, si legge Jovetic, chi per la Juventus, Carlo? No, direi il desiderio è Oscar, l'opportunità potrebbe essere Cuadrado, ma se il Chelsea fa caso su altri fronti non so se accetta il prestito, e comunque tutto è condizionato a Pogba, perché se Pogba non parte io credo che la Juventus per un ruolo così importante non spenda tanti soldi e soprattutto non intasi la rosa. Sì. Zeko andrà alla Roma? Ci sono ottime possibilità per Zeko alla Roma. Prossimo acquisto dell'Inter? Il più vicino è Perisic, sì. Mentre la notizia di giornata è l'accordo del Manchester United con il Torino su Darmian per 18 milioni più 2 di bonus. Fatta? Sì, ormai sì, è fatta. Ed è una grande operazione. Speriamo che Darmian abbia successo in Premier League. Sì, faremo tutto. Io faccio il tifo per tutti i nostri giocatori che vanno a giocare all'estero e torno a ripetere, facciamo un gran parlare, ma perché non facciamo giocare italiani? A me piace molto vedere invece gli italiani che vanno a giocare all'estero da protagonisti in grandi squadre e farò un tifo sfrenato per Darmian allo United, così come lo faccio per Verratti al Paris Saint Germain e per tutti gli altri nostri in giro per l'Europa, perché non trovo niente di peccaminoso nell'andare a fare soldi e ad andare a fare esperienze e andare a giocare da protagonisti in altri grandi campionati. Carlo, un'ultima cosa. Sì. Ibra Real, l'ho letta ieri, l'hanno scritta in Spagna. Ronaldo, qualcuno continua a dire che ha il mal di pancia, che con Benitez non va tanto d'accordo. Succede qualcosa? Allora, su Ibra Real no, ma su Cristiano Ronaldo PSG io tengo le antenne dritte. Perché fondamentalmente è quello l'argomento che può spingere Ibra a tornare in rossonero al Milan. Perché il patto di Doha cosa è comporta? Ibra rimane lì fino a quando il PSG non avrà trovato la grande stella, che sia CR7, che sia Neymar. Se l'Emir Altani non riesce in questa impresa, si tiene Ibra. Si tiene Ibra, però cioè puntano in basso, non la Casette che pure è un splendido giocatore, ma Cristiano Ronaldo, Neymar, gente di questo tipo. Di Maria per loro in questo momento è un obiettivo secondario, Perché hanno avuto l'apertura al fair play finanziario, sì, certo, quindi certo, certo, c'è questa, certo, questa concessione che sicuramente i soldi, anima il mercato. I soldi non gli mancano le idee neanche. Grazie Carlo. A te, a tutti. A presto. Ciao, grazie, ciao, Carlo Lambisa. Voce di Iturbe. Allora, ieri abbiamo parlato, vi racconto una storia, un'altra storia. Ieri abbiamo parlato e mi sono molto divertito di quei giocatori che hanno giocato in Serie A per una volta soltanto. Abbiamo parlato di Pacchi, vi ho chiesto qual è il vostro ricordo più vivo di queste meteore che sono passate nella nel calcio italiano. Ho detto prima e non lo rinnego, il pacco dell'anno scorso è stato Iturbe, un pacco costosissimo, 31 milioni per la Roma, pessima stagione per Iturbe. Oggi ha parlato e poi vi dico, secondo France Football, giusto? L'Equipe, France Football, France Football, vi dico chi sono i sette traditori o mercenari, se preferite, del calcio mondiale secondo France Football. Ma sentiamo Iturbe. Beh, noi siamo una squadra forte, l'ho detto sempre da quando sono arrivato. Quest'anno sarà difficilissimo per noi, per tutte le squadre. Sappiamo che, come hai detto, l'Inter, Milan si stanno rinforzando alla grande, quindi sarà una stagione buona. Penso che la Roma sta facendo delle cose buone, già iniziando con i preparatori fisici e tutti che hanno arrivato. Questo è Iturbe, in bocca al lupo naturalmente alla Roma per non ripetere la stagione disastrosa dell'anno scorso. Allora, secondo France Football, i sette traditori, i sette mercenari del calcio mondiale, classifica guidata dall'attaccante brasiliano Diego Tardelli, che nel 2011 è andato all'Anzi, ha giocato 14 partite e poi è andato in Qatar. Quindi, dopo una breve parentesi in patria, l'Atletico Mineiro, eccolo in Cina, allo Zhangdong Luneng, dove gioca attualmente. Secondo in classifica è uno che conosciamo bene, Samuel Eto'o, e conosciamo le varie peripezie. Adesso è andato in Turchia, come sapete, giocherà insieme a Ronaldinho? Hanno preso anche Ronaldinho in questa fantomatica squadra che sta provando a rinforzarsi in Turchia, o comunque sta provando a vendere delle magliette evidentemente. Terzo posto per Dembaba, dopo West Ham, Newcastle e Chelsea, avventura al Besiktas e da poche settimane in Cina allo Shanghai Shenhua, un sacco di soldi in Cina, lo sappiamo. Terzo, uno che conosco poco, Mazou, CSKA, Bordeaux, Monaco, Zulte, Mans, Etoile de Sahel, Victoria Guimaraes, Maritimo, Funzal, e poi la Cina, il tutto in 4 anni. Mi sorprende che al quinto posto di questa classifica dei mercenari, ma poveretto, ci sia Alessandro Matri, che sappiamo bene nelle ultime stagioni ha attraversato un po' di squadre per difficoltà di ambientamento, non certo per arrotondarsi lo stipendio come hanno fatto gli altri ogni volta che cambiava squadra. Comunque, per completare la classifica, il sesto è Anelka, giocatore abbondantemente finito ormai da diverse stagioni, adesso è in India al Mumbai, nuovo ruolo di giocatore allenatore, auguri per quelli che saranno allenati da Anelka. E quindi settimo è Ekoko, altro giocatore che conosco poco, ma quinto Matri non ci sto, dai ragazzi, bisogna chiamare a France Football. Manco Svaldo nella lista dei mercenari, ha ragione Giorgio De Luca. Proprio lui! Carlo da Pavia, buongiorno. Ciao Carlo. Ciao. Ah, è interessante questa classifica, mi dispiace anche a me per Matri. Ma lui secondo me non c'entra in questa classifica, perché io capisco quelli che cambiano squadra per ogni volta andare ad aumentare l'ingaggio. Matri ha avuto stagioni disgraziate, avventure sfortunate, passato da una squadra all'altra per altri motivi. E questa è la sua sfortuna, diciamo. Adesso vediamo se sta al Milan, non sono così convinto. Ma io gli faccio tanti auguri comunque. Bravissimo ragazzo, è un grande professionista. Giocatore a me piace anche. Sì, è uno degli italiani, come dicevi tu prima. Io ho chiesto di intervenire, di farmi convocare per intervenire sul discorso degli italiani nella rosa delle squadre. E come dicevi tu, in fondo non sarebbe giusto limitare una circolazione tra professionisti. Non solo non sarebbe giusto, non si può fare per legge. Non si può fare, no. Perché esattamente, insomma, è come fare passi indietro nella storia. Ma volevo chiederti, anche dopo vorrei farti un'altra domanda. Volevo chiederti, non sarebbe proponibile fare che ogni squadra proponesse un minimo di giocatori italiani nella rosa, tipo un 30% di giocatori italiani nella rosa? Sì, questo, sì, questo è stato proposto anche da Tavecchio, cioè per mettere un limite ai giocatori non solo italiani ma eleggibili per la nazionale nelle rose italiane. Ci scontriamo sempre di fronte a un problema legale, a un problema di contingentamento che non so quanto possa essere superabile a livello delle normali leggi europee, cioè i professionisti hanno la piena libertà di circolazione, andare a lavorare ovunque gli venga proposto un lavoro all'interno dell'Unione Europea. Questo vale per i giocatori, vale come anche per me e lei. Ilias da Udine, poi andiamo al tour, dove leggo che c'è stata un'altra cadutaccia. Ilias, sì, buongiorno. Ciao Carlo, buongiorno. Ciao. Un'altra voce greca da Udine. Ho sentito Riccardo prima, che conosco e saluto, allora ho pensato di dire due paroline rapide anch'io. Dimmi. Allora, a proposito di Olympiakos e Panathinaikos, bisogna sapere che pur essendo, io sono Olympiakos da quando sono nato, però ho sempre, cioè i greci della diaspora hanno sempre amato profondamente anche gli avversari. Non siamo mai mancati a una partita del Panathinaikos, per dire, o del PAOK o dell'Aris Salonico, eccetera. I greci della diaspora sono unitissimi e vogliono profondamente bene i nostri colori greci. Sì, sì. Ecco. Questo volevo dire, visto che questi giorni si parla anche tanto della Grecia, della nostra patria, e soprattutto tu hai, aprendo il programma, credo, hai messo anche il Sirtaki, che mi ha ricordato il 2004 di Lisbona. Quindi... ho fatto sentire anche quel gol che credo di Charisteas. Di Charisteas. Che vi stia ancora facendo godere. Ilias, ti devo salutare perché devo andare al tour. Grazie, torna presto a trovarci. Da Udine 800240024, tutte le volte che vuoi. Pier Augusto Ostaggi di corsa al Tour de France, dove c'è stata un'altra caduta. Ciao Pier. Pier Augusto, ci sei? Pier Augusto Ostaggi, ce lo siamo perso. Beh, ve lo dico io, oggi ancora problemi meteo nella quinta frazione che arriva ad Amiens, 189,5 km. Non ci sono grandi difficoltà altimetriche, dovrebbe essere una tappa normale, e invece, a quanto leggo, altra caduta. Non credo ci siano uomini di classifica coinvolti, però a causa del vento, velocità elevate, grandi ovviamente grande tensione come in ogni tappa del tour, e un altro capitombolo ce lo racconta dopo Pier Augusto Ostaggi. Intanto vi faccio sentire il Nibali di ieri. Nibali che, abbiamo detto, dopo una pessima giornata ieri sul muro di Wii doveva limitare i danni, è arrivato settimo. From in questo momento è il padrone della corsa gialla, che è però solo all'inizio. Nibali: noi abbiamo cercato di correre davanti per non correre troppi rischi, e poi sapevamo che i tratti erano in leggera salita, anche in leggera discesa, quindi abbiamo provato io in prima persona a cercare di rompere un gruppettino, ma era molto difficile, c'era anche vento in faccia, quindi era veramente difficile fare selezione. A un certo punto è sembrato che volessi attaccare da solo, è così? No, sapevo che allungando magari qualcuno poteva seguirmi, anche se magari mi trovavo un pochino più avanti, magari mi avrebbero raggiunto, a cercare una collaborazione, però è stato veramente difficile e nient'altro. Questo era Nibali. Tra gli altri coinvolti nella caduta di oggi sono però tutti ripartiti: Coccar, Möllema, Nicolas Roche, e poi c'è Boigny, e ci sono altri corridori coinvolti in questa caduta di oggi, ma come detto tutti ripartiti, e vediamo come va a finire un'altra tappa piuttosto difficile al tour. Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Giovanni Melchiori in redazione. Ci sentiamo domani dopo il GR delle 2. Ciao a tutti. È un mesetto che non vi sentivo, dopo vado in astinenza, ho bisogno di chiamarvi. Ciao, aiuto.